Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Naturalmente potete trovarci anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. E ultimamente anche in DAB, in via d'espansione, per adesso qualche provincia emiliana, ma i progetti per l'anno prossimo sono veramente di espansione, per cui rimanete sintonizzati, oltre per tutto il resto, anche per le notizie riguardo l'ampliamento dell'ascolto di Radio Città Fujiko. E come ogni venerdì, più o meno alle 10.30 del mattino, arriva Città Fujiko Live Club, Record Today arriva dopo, Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live di ogni epoca e di quasi ogni genere. E anche oggi una novità ad aprire Città Fujiko Live Club, una novità che è una ristampa del primo album di una band per me sensazionale, che però non ha avuto il riscontro che meriterebbe a livello mondiale. Sto parlando degli Stiff Little Fingers, una band che viene da Belfast, Nord Irlanda, e che è attiva dal 1977, poi sono sciolti per qualche tempo dal 1982, si sono riformati nel 1987 e sono attivi fino a questo momento. Il tutto sotto la guida di Jack Barnes, che è il leader e l'unico membro permanente, perché poco a poco è diventato il leader della trasmissione, il leader della formazione, e fra parentesi è lui che decide chi va e chi viene, tanto che Alec McMurdy, che era il bassista originale, fu licenziato con un fax nel 1991, ma poi è stato fatto tornare nel 2006 e quindi adesso è di nuovo nella band. Loro sono una band punk secondo me a livello assoluto, alla pari di Sex Pistols, di Clash, di Damned, di tanti altri che però hanno avuto più fortuna di loro. Sono anche molto molto politicizzati, nel senso che i loro testi, soprattutto quello dell'album del quale vi propongo la ristampa, che si chiama Inflammable Material, che è il loro primo album, è stato pubblicato nel febbraio del 1979, naturalmente era un long play. Poi è stato riedito qualche settimana fa in formato doppio CD, con il secondo CD live registrato alla Town Hall di Troon in Scozia, Gran Bretagna naturalmente, il 20 ottobre del 1979, quindi l'anno della pubblicazione originale. Una curiosità, è stato pubblicato anche nel frattempo, oltre a questa ristampa doppia CD, un mega cofanetto costosissimo, che comprende lo stesso concerto, quello appunto di Troon, però mentre la versione del cofanetto ha 13 canzoni, la versione che vi propongo io, quella per poveri, ne ha solamente 9. L'importante però è che comprenda quello che secondo me è uno dei brani migliori in assoluto della loro discografia, anche se non è un brano loro. Infatti nella mia top 10 personale veleggia sempre ai primi posti la versione Johnny Was, un pezzo accreditato a Rita Marley ma scritto da Bob naturalmente, che però ha dato i crediti alla moglie perché così facesse un po' di soldi. E Johnny Was è stato completamente stravolto, lo sentirete, dagli Steve Little Fingers, è diventato uno dei loro brani di punta e appunto uno dei miei brani preferiti. 9 minuti e 45, vi avviso, ma li vale veramente tutti. Johnny Was, loro sono Steve Little Fingers. This next one then you should know, it's a bit slower than that. It's a song that was written by Bob Marley. Basically about somebody being killed for being in the wrong place at the wrong time. This is called Johnny Was. Forse avrete sentito Jack Barnes, chitarrista, cantante e nonché leader degli Steel Little Fingers, dire all'inizio del brano che questo è uno dei momenti di quiete del concerto, figuratevi il resto. Comunque una grande cover secondo me, Johnny Was, lui ha detto che è di Bob Marley, in effetti come dicevo prima l'ha scritto Bob Marley ma l'ha accreditato alla moglie Rita, e il tutto tratto dalla ristampa del loro primo album, secondo me imperdibile, si chiama Inflammable Material, che comprende nella ristampa uscita un paio di settimane fa due CD dei quali il secondo registrato dal vivo il 20 ottobre del 79 a Troon in Scozia. E Bob Marley è stato un grandissimo personaggio, sono io certo a scoprirlo, purtroppo ci ha lasciato, come molti di voi sapranno, nel maggio del 1981, quindi tantissimi anni fa. E a questo punto l'intenzione è quella di farvi ascoltare brani scritti da Bob Marley ma interpretati da altri artisti, chiamasi covers. E calmiamo subito le acque, iniziamo da un brano molto dolce, molto lento, molto tranquillo, ma molto molto molto bello. A interpretarlo è una cantante perché lo fa ancora, ma purtroppo è morta qualche anno fa, nel 2023 se ricordo bene. Lei si chiamava Sinéad O'Connor, un personaggio molto controverso anche dal punto di vista proprio del personaggio, ma come cantante non si discuteva assolutamente. Tra l'altro è la sorella dello scrittore Joseph O'Connor, che a me piace veramente tantissimo. È stata un'attivista contro gli abusi sui bambini e sulle donne, anche perché lei era stata abusata, per cui ne sapeva di cosa stava parlando. Ha fatto un paio di album dal vivo più alcuni singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama il brano di punta This is a Rebel Song, ed è stato pubblicato in due versioni. La seconda comprende una registrazione effettuata al Chastain Park di Atlanta il 2 settembre 1990, una canzone che è tratta dall'ultima canzone dell'ultimo album di Bob Marley, che si chiama Uprising. La canzone è fantastica, si chiama Redemption Song, lei è Sinéad O'Connor. They took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We fought in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our no fear for atomic energy, 'cause no one can stop the tongue. How long shall they kill our prophets? Would we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tongue. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look, some say it's just help to sing. Pezzo che si chiama Small Axe, è un brano che Bob Marley scrisse insieme a Lee Scratch Perry, un grande della musica giamaicana. Quest'ultimo lo pubblicò come singolo nel 1970. La versione che ci siamo ascoltati arriva dalla Trey Anastasio Band. Trey Anastasio, chitarrista, cantante, fondatore nel 1983 dei Fish, come anche gli altri tre, ogni tanto si prendono una libera uscita dalla band e fanno delle cose come solista. Questo è un album che si chiama Plasma, è il primo album live della Trey Anastasio Band. È stato registrato questo brano in particolare al Tabernacle di Atlanta il 1 novembre del 2002. Ripeto, il brano si chiama Small Axe. Capita che Mr. Eric Clapton prenda le canzoni di altri e ne faccia una propria versione. Questa non è molto dissimile all'originale, ma ha una coda chitarristica che l'originale di Bob Marley nell'album Burning del 1973 non aveva. Naturalmente il brano l'avrete riconosciuto tutti, si chiama I Shot the Sheriff ed è stato registrato all'Hammersmith Odeon di Londra il 4 e il 5 dicembre del 1974. Fa parte di una ristampa, anche in questo caso come nel caso della proposta di oggi, quella degli Steve Little Fingers, due CD, il secondo dal vivo appunto registrato nel 1974, I Shot the Sheriff. E proseguiamo con i brani famosi, ce ne sono tantissimi di Bob Marley, non riuscirò sicuramente a farvi ascoltare. Questo è un altro pezzo abbastanza lungo, viene da una band che si chiama Blues Traveler, vengono da Princeton nel New Jersey e sono attivi dal 1987. Hanno la loro arma letale, diciamo così, fra virgolette, è in John Popper, un grande, grande armonicista che sentirete anche in questo brano, una band che appartiene al filone jam e che ha registrato diversi album dal vivo. Questo si chiama On the Rocks, è stato registrato naturalmente a Red Rock, Morrison, la città più vicina, in Colorado, il 4 luglio del 2003. Il brano è stato accreditato a Vincent Ford, non leggerete nei crediti Bob Marley ma Vincent Ford, in realtà l'ha scritto Bob Marley. Vincent Ford era un suo amico che era in difficoltà economiche e gli diede i crediti di questo brano che si chiama No Woman No Cry, che sicuramente gli ha portato un po' di liquido in cassa. Loro sono Blues Traveler, No Woman No Cry. I said, yeah. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Yeah. Everything is gonna be alright. No woman, no woman, no woman, no woman, no woman. We'll be right back. purtroppo finisce così, sfumando una cosa contraria alla mia religione, ma è proprio così. Questo pezzo, che avrete riconosciuto sicuramente, si chiama Live Up Yourself, è nell'interpretazione di Robert Plant, uno dei suoi album, il suo secondo album, si chiama solo, si chiama The Principle of Moments, è stato ristampato, originariamente era del 1983, è stato ristampato nel 2007 con 4 brani in più, fra cui questo Live Up Yourself, registrato non si sa bene dove, probabilmente a Detroit, ma non è dato sapere. Un brano molto famoso che viene da un album di Bob Marley del 1974, che si chiama Natty Dread, e purtroppo viene sfumato in questo modo assolutamente ignobile. Concludiamo questa piccola rassegna di brani di Bob Marley interpretati da altri artisti, da altre band. Ce ne sarebbero veramente, non dico un'infinità, ma tantissime. Qui abbiamo una band che viene da New York City, anche se hanno il loro DNA è assolutamente irlandese, come sentirete. E vengono, dicevo, da New York City, sono stati attivi dal 1989 al 2014. Il nome, si chiamano Black 47, riguarda, è relativo al 1847, che fu il peggiore anno di quella che viene chiamata The Great Famine, la grande carestia che colpì l'Irlanda e che costrinse tanti irlandesi a emigrare negli Stati Uniti. Black 47 sono fortemente politicizzati, alcuni addirittura li hanno associati all'IRA, ma musicalmente sono veramente tosti. Live in New York City si chiama l'album, che è il loro primo album dal vivo, che è stato registrato al Wetlands di New York City, guarda caso il giorno di San Patrizio, 17 marzo 1998, ed inizia con questo brano che originariamente era su Exodus di Bob Marley. Il brano si chiama Three Little Birds, loro si chiamano Black 47. Tonight, you know that? You wanna be on it? Come on, let's go to it. Singing. turn. Come on. George. Paola. Every. It's gonna be alright. Oh, you're happening. Come on. George. Paola. Every. It's gonna be alright. I gotta take a drink, so you gotta keep singing. George. Devices and 10,000 dead. The solution to our problems, they put up the wall on each and kind of primers, and so we can fuck off. They play the game to power, they cut a mind to pass, they deal us to the bottom, but what do they put back? Questi erano Steel Little Fingers ad aprire la seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata naturalmente con la novità che vi propongo quest'oggi, una ristampa del primo album della band, di questa band di Belfast, che si chiama Inflammable Material, materiale infiammabile, ed è veramente infiammabile questo album, incredibile. E il secondo, la ristampa che è uscita qualche settimana fa, contiene un secondo dischetto registrato dal vivo alla Town Hall di Throne in Scozia, e il brano che ci siamo ascoltati si chiama At the Edge. Naturalmente seconda parte di Città Fujiko Live Club, che come sempre contiene Recorded Today. Ricordate, Today è la rubrica che si preoccupa di farvi ascoltare i brani che sono stati registrati nella giornata odierna, 10 dicembre, nel corso del passare degli anni. Ce ne sono veramente ancora tantissime e la scelta, come al solito, è quella di un brano per ogni decade, però oggi è veramente un casino perché abbiamo 7 decadi da espletare. Vediamo se ci riusciamo. Un plurale maestatis che non è assolutamente il caso, ma andiamo subito al 1969. Siamo insieme a me i Beniamini King Crimson. Molti mi dicono, alcuni amici mi dicono che li trasmetto un po' troppo spesso, ma non è colpa mia, sono fatto un sacco di cose dal vivo e tutte molto belle. Qui abbiamo un cofanetto, uno dei primi cofanetti che Robert Fripp ha pubblicato. King Crimson naturalmente vengono da Londra, sono attivi dal 68 e il capo è sempre stato Robert Fripp. Dicevo, un cofanetto quadruplo, si chiama Frame by Frame, è stato pubblicato nel novembre del 1991. Tre CD sono antologici, mentre il quarto si chiama Live 1969-1984, 1969-1984. Contiene diverse cose, fra cui questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che fa parte di un'opera di musica classica. Si chiama The Planets, i pianeti, l'ha composto un compositore inglese che si chiama Gustav Holst e ha fatto parte per il primo periodo della band, dei King Crimson appunto, della loro set list quasi quotidianamente. Qui abbiamo una registrazione effettuata al Fillmore West di San Francisco il 10 dicembre del 1969. Il brano, come tutti gli altri, è dedicato a un pianeta diverso, questo è il caso di Marte, si chiama Mars. Thank you. Si chiama The Planets, i pianeti, l'opera di Gustav Holst, da quale è stata tratta questa Mars, vale a dire Marte, nella interpretazione dei King Crimson, i primi King Crimson, quelli originali, al Fillmore West di San Francisco, California, il 10 dicembre del 1969, contenuto in questo bellissimo cofanetto che si chiama Frame by Frame, uno, come dicevo, uno dei primi cofanetti che Robert Fripp ha pubblicato. Sono spesso stati, anzi sempre, associati alla musica punk, ma secondo me erano un tantinello oltre la musica punk. Sto parlando degli Stranglers, un quartetto che arriva da Surrey, in Gran Bretagna, ed è attivo dal 1974, ma l'unico rimasto dei membri originali è Jean-Jacques Burnel, il cantante e bassista. Quello che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live Excerpt, ed è il primo di molti album live che ha pubblicato la band. Questo è stato pubblicato nel 1979, ma la versione che ci andiamo ad ascoltare è l'ennesima ristampa di questa trasmissione, arriva dal 2001 con due canzoni in più, una appunto quella che ci andiamo ad ascoltare, registrata il 10 dicembre del 1976 in un pub londinese che si chiama Nashville, che è stato uno dei primi nel quale suonavano i punk londinesi. Stranglers, quindi ce l'andiamo ad ascoltare, il brano si chiama Peasant in the Big City, ed è tutto il 10 dicembre 1976. Prima epoca degli Stranglers, siamo nel 1976, il brano si chiama Peasant in the Big City ed è contenuto nella ristampa dell'album che si chiama Live Excerpt. Molto velocemente passiamo adesso a Uriah Heep, siamo nel 1987. Oltre a essere un'icona della musica hard rock britannica, sono stati fra i primi, se non i primi, fra i gruppi occidentali a suonare a Mosca. Hanno fatto 10 concerti all'Olympic Stadium, presumo in un posto coperto perché il 16 dicembre a Mosca non credo sia molto caldo, e ne hanno tratto un album che ha segnato sulla copertina 10 brani. C'è quello che si chiama un hidden track, che è il loro brano più famoso, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato appunto il 10 dicembre del 1987. Il brano si chiama semplicemente Gypsy. Cross my back, then told me. I was out person I've been before. Skyballs and skyscraper, Simba, been me before. Skyballs and skyscraper, Simba, been me before. Skyballs and skyscraper. Nella prima parte ci siamo ascoltati Trey Anastasio con la sua band in versione solista, invece qui l'abbiamo insieme agli altri suoi tre compari che, con i quali forma i Fish. La band che arriva da Burlington, attivo dal 1983, sempre con lo stesso line-up appunto. È uno dei leader, la band leader del momento jam band, secondo me, dopo la fine dei Grateful Dead. Quello che ci siamo ascoltati è un doppio CD che si chiama Alive One, è il primo di una serie immensa, direi, di live albums che potete trovare sul loro sito e che sono tutti, secondo me, molto molto validi. Questo Live One è stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci hanno ascoltato si chiama Simple ed è stato registrato al Civic Auditorium di Santa Monica, uno degli agglomerati urbani che formano l'immenso Los Angeles. Era il 10 dicembre del 1994. Non è facile riempire una location da 22.000 posti, se ricordo bene. Si chiama O2 Arena e sta a Londra, ma se hai più di 2 milioni di richieste, allora il difficile diventa esonerare, diventa tagliare, diventa eliminare le richieste. E infatti più di 20.000 fortunati hanno assistito il 10 dicembre del 2007 alla reunion delle Zeppelin. Ne hanno fatte solamente due dopo la fine di John Bonham nel 1980, che decretò anche lo scioglimento della band. La prima fu a Live Aid Concert con Phil Collins e Chester Thompson alla batteria. Qui invece alla batteria abbiamo Jason Bonham, figlio di cotanto padre. Registrato appunto a Londra il 10 dicembre 2007, non potevo non scegliere questo brano perché è un inno assolutamente rock and roll. Still on. Brano finale del concerto di reunion Led Zeppelin O2 Arena di Londra, 10 dicembre 2007, immortalato in un doppio CD che si chiama Celebration Day, e ci sta tutta. E il brano che ci siamo ascoltati, l'ultimo appunto di quel concerto, si chiama Rock and Roll, da parte di questa super super mega band. Sempre molto velocemente, arriviamo al 2010 insieme a Warren Haynes, grande grande personaggio, grande chitarrista, prima con la Dickie Betts Band, poi con l'Aman Brothers Band e poi con i Gop Mule. L'abbiamo visto diverse volte anche qua in Italia, per fortuna, e speriamo di rivederlo ancora. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un 12 pollici che è stato pubblicato per il Black Friday Record Store Day del 2011. La facciata B si chiama Every Day Will Be Like a Holiday, tutti i giorni saranno come una vacanza, ed è stato registrato a una Christmas Jam che Warren Haynes organizza sempre nella sua città per Natale, per raccogliere fondi per i non abbienti di Asheville, North Carolina, che è appunto la sua città natale. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato il 10 dicembre 2010, Warren Haynes Band. Every day would be like a holiday when my baby, when baby comes home. Thank you. Maze, Every Day Will Be Like a Holiday. Era il 10 dicembre del 2010. Com'è facilmente pronosticabile, non ce la faccio a farvi ascoltare anche la registrazione inerente al 2022, ma erano 7 decadi, era praticamente impossibile farcela. E quindi vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e sempre naturalmente Città Fujiko Live Club. Grazie a tutti di nuovo per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio Live Club. In studio Nevio Bencivelli.